Bam! Benvenuti, episodio 21. Stavolta sono preparato perché è il 22 e poi mi ero incasinato. Va bene, comunque. Andrea ha quittato così. Te doveva cambiare in tutta sensuale. Allora, diciamo che in questa puntata ci siamo io, Jacopo e Andrea, come al solito. E poi abbiamo un ospite che io faccio autopresentare, come sempre. Sono Angela. Devo dire altro? E basta. Lo so, mi diverto sempre a fare sta cagata. Allora, e stasera parliamo di un film che non ho deciso io, anche se in realtà è come se l'avessi deciso io, perché di fatto è uno dei miei film preferiti. E, il film è stato proposto dall'ospite e non so se, Angela, vuoi fare tu un intro oppure faccio io? No. I tuoi intro sono troppo belli per essere tolti. Va bene, è stata corrotta l'ospite prima di... Allora, parliamo di un film... Allora, questo è un episodio che si chiamerà tipo Operazione Nostalgia, probabilmente. E... Ma no, dai, è più bello usare i colori. Usare i colori, va bene. E... è un film del 2017 che parla di un franchise nato nel 93, più o meno, forse in Giappone un po' prima, non lo so, e un franchise che ha segnato la mia infanzia come mio franchise preferito, insieme a Batman forse, e quindi è per quello che il film mi piace tantissimo, vabbè, e... allora dicevo, è un film del 2017 ed è il film dei Power Rangers. E non so perché Angela ha scelto questo film, però grazie. E mi serve proprio una scusa per parlarne. Allora, non so se qualcuno in ascolto non conosce la trama dei Power Rangers. Questa è più o meno la trama originale con qualche differenza di base. Comunque, la trama è un intero pretesto perché i protagonisti combattano contro Rita Repulsa, come più o meno tutti gli episodi dei Power Rangers. Cominciamo da... dalla regia. La regia è di un certo Dean Israelita, è il suo cognome, non lo so, e che però ha fatto cose che non conosco, e in realtà è stato preso in considerazione per la regia di Doctor Strange, quindi mi aspettavo che Andrea qui facesse tipo una grandissima ola o qualcosa del genere, e poi non l'hanno scelto, non so perché... E lo sceneggiatore è Jones, la sceneggiatura è accreditata a John Gatins, che è statunitense e ha fatto anche Kong e Need for Speed, di cui volevamo anche parlare in realtà, e in realtà pochissimo altro, Hardball, vabbè, insomma non è particolarmente conosciuto. Invece il cast è eccezionale e in realtà lo è stato dopo il film, forse, a parte Bryan Cranston, non lo so. Allora, appunto, c'è Bryan Cranston che non devo presentare, sì? Non lo so, boh, ditemi voi. E, comunque è l'omino di Breaking Bad, detto in parole povere. E il protagonista è Dacre. Come cazzo si legge il suo nome, secondo voi? Dacre, che è l'omino di Stranger Things, il fratello di quello che ha fatto, credo, la seconda e la terza stagione, immagino solo. E interpreta il fratello di Max. Il fratello di Max, esatto. E che è stato scelto in questo film probabilmente solo perché è gnocco. E dopodiché il Power Rangers nero, cioè blu, è RJ Siler, che non so onestamente chi sia, ma va bene lo stesso. E tra qualche rapper abbiamo, sì, quel solito qualche rapper, qualcuno. Caso strano. E mi manca e l'altro Power Ranger asiatico che non è giallo è Ludi Lin, che ha fatto credo qualcuno in Aquaman, che non so chi sia, però, e penso poco altro. La parte femminile è data in mano a Naomi Scott, che recentemente ha fatto Aladdin, o meglio Jasmine in Aladdin, che qui interpreta Power Rangers Rosa, e quella nana di Becky G, che in realtà credo che abbia fatto la cantante prima di questo, penso. E infine Rita Repulsa, interpretata da una bellissima... lei è la rapper. Esatto, sì. Da una bellissima Elizabeth Banks, che molti ricorderanno per... Boh, noi ricordiamo per Scrubs. E poi ha fatto una tonnellata di film, di commedie, e era anche in Spider-Man di Raimi. Che faceva in Spider-Man? Boh. Questo me la credi. Io me la ricordavo per Hunger Games, figurati. Per Hunger Games. Ha fatto un pacco di roba. Però, insomma, va bene. E il film è andato male. Ha un indice di gradimento di 44% su Rotten Tomatoes. E, ha incassato... Il budget doveva essere 100 milioni più o meno e ha incassato 140 milioni, quindi è andato molto male. Diciamo che il rilancio... Cioè, molto male. Non bene, che è un modo per dire male, e di sicuro non ha rilanciato il franchise, ma magari ha venduto qualche giocattolo, non lo so. E, basta, in realtà non ho nient'altro da dire, poi ho tantissime cose da dire, però prima volevo lasciarvi parlare un po' voi, perché poi io davvero ho una lista di cose mi sono fatto da fare, da dire. E ditemi belle voi, sì, qualcosa su sia belle sia brutte. Cosa? Dai, la lag. Sì, la lag. Purtroppo. Allora, dai, chi comincia? Andate. Dai, Jacopo. Ma che dire? Anche per me questo film è uno dei migliori film della storia, forse. Riesce ad essere contemporaneamente bellissimo e bruttissimo, non so come, cioè, me ne sono reso conto l'altro giorno perché stavo ascoltando il dialogo tra il Power Ranger, diciamo, giallo, che però non è giallo, e il protagonista, il nero, intendi? Il nero, che è esatto, che è nero. Questo era un podcast che penso da cancellare dalla faccia della terra, per quanto mi distorce. Però nella serie originale era così, cioè il nero era nero e l'asiatico era giallo. Nero? No, non è vero, l'asiatico era giallo, giallo è sempre giallo. Stata donna. La femmina era rosa. La femmina era esatto, però l'asiatico, vabbè, no, parlo dopo, non dico nient'altro. E il dialogo, no, no, vai, tanto. No, c'era questo dialogo tra l'asiatico e il protagonista, e stavano dicendo e poi anche il dialogo tra il protagonista e la, diciamo, la tizia, la Power Ranger rosa. Cioè, un dialogo scritto veramente male, però realistico. Però è assurdo allo stesso tempo, cioè che nessuno potrebbe mai dire, che però lasciava trasparire, insomma, qualche briciolo di umanità di questi protagonisti. Non lo so, cioè... Però la scena finale che mette quella musica totalmente a cazzo, però poi mette la musica di Power Ranger, cioè... Non lo so. Falla, aiutami tu, non so... No, io davvero, io ho una lista enorme, dopo comunque ne parliamo, però prima volevo davvero sentire cosa avete voi da dire, mi sono proprio preso, ho preso appunti mentre lo guardavo per la mia terza volta. E, allora, oh, vabbè, dai. È divertito tantissimo guardarlo, cioè, i dialoghi sono, invece sono per bambini, gli effetti speciali sono gli effetti speciali di qualsiasi film americano, non lo so, tipo con i figli delle Power Rangers, che sono stati bellissimi. Cioè... Oh. Ma a te è piaciuto? Ah, perché vabbè, ok, vabbè, ma dovete, cioè, sapere che l'ospite è appassionata di film trash. Esatto. Quindi in realtà questo è anche alto, forse, per gli standard che... Io ho pensato di veramente peggio, però... No, no, ma io... È bello in quanto veramente brutto. Cioè, la trama è una trama di qualsiasi puntata dei Power Ranger. trama è il pretesto per farli combattere con la tipa. C'è un colpo di scena, non c'è niente, cioè il cattivo arriva a combatterlo, sembra che stanno per perdere, ma si trasformano, ma quasi perdono di nuovo, e a quel punto arriva il Megazord e vincono. Cioè, è esattamente una puntata della prima stagione. Madonna, è un Bob's and Show, praticamente. È bellissimo. Dai, allora sentiamo prima la campana di Andrea e poi comincio subito a farvi le domande. No, cioè, boh, non so, il film secondo me è molto brutto, però però non mi è dispiaciuto, perché comunque l'ho visto, cioè, mi è fatto piacere vederlo, perché, non so, magari ti ricrea questa, ti riporta quando eri bambino, non lo so, che guardavi Power Rangers, una sorta di, esatto, una cosa così, quindi... non mi è dispiaciuto alla fine. Poi ho apprezzato anche il cameo degli originali, almeno qualcuno. C'era solo il Green Ranger, Green White Ranger e Kimberly, la Pink Ranger originale, alla fine film. Non so se avete visto. Bravo, ti sei sicuro che hai l'avete... Li avete... No, io l'ho visti subito, cioè sono rimasti uguali, sono identici. Gli altri, vabbè, c'era cioè, Trini, la è morta. Quindi non poteva esserci, gli altri due non so perché. Vabbè, però parliamo di Power Rangers, la prima, cioè Mighty Rangers. Sì, sì, sì. Mighty, no, come si chiamava la prima? Mighty Morphin Rangers, Power Rangers. La prima, sì. Sì. No, perché Power Rangers ha avuto tipo un milione di stagioni dopo. Sì, sì, sì, sì. Sì, già nella seconda stagione hanno cambiato i... Esatto, il nero non era più nero, cioè... già lì era. Va bene, allora, intanto io vorrei dire che questo è il film che Lanterna Verde sarebbe dovuto essere. È terribile, questo anche. No, è vero. Cioè... Lanterna Verde è brutto, ma questo... Cioè... Cioè, Lanterna Verde comincia con il supereroe, cioè il prescelto, che sta perdendo uno scontro e prima di morire si sacrifica per regalare questo anello, che chiameremo amuleto, a un prescelto futuro da qualche altra parte, che poi lo prenderà e sconfiggerà il cattivo, come questo film. Però questo è più bello di Lanterna Verde. Vabbè, era importante da dire questa cosa qua. E... Anche Reynolds ci teneva esattamente a questo commento. Allora, dopodiché vorrei dire intanto che la colonna sonora è incredibile. Non esiste. No, è bellissima. Allora, sono tutte canzoni da liceale americano, quindi orrende, ma ogni tanto ci sono i cult dei Power Rangers, per cui quando lui dice forza andate Power Rangers, parte go go Power, cioè è incredibile, la colonna sonora è incredibile, è bellissima, non ho mai sentito colonna sonora più bella se non forse i film di Star Wars. Dopodiché... Il prequel. Dopodiché... Allora, intanto non mi è... allora, ci sono tutti gli stereotipi del liceo americano. Solo che questo film ha alcuni problemi. Intanto gli attori hanno almeno 25 anni ciascuno, se non 30. E si vede. Quindi non ha senso che... È vero, sembra tipo 21 Jump Street. E poi sono palesemente tutti fottuti indossatori. Quindi tutte le menate che fanno del, per esempio, il nerd di merda e autistico, è comunque un cazzo di figo. Cioè, lui ha il fisico di un indossatore, cioè è un bell'uomo, cioè è inutile che vai. E quindi lì è il figo, nerd, eccetera, ma è palesente. E quello è molto bello, invece, perché l'ho vista come una lettura del regista su, insomma, di sforzare l'immaginazione dello spettatore per... diciamo, per trovare un liceo di strafighi. Trovare un liceo di strafighi, esatto. Dopodiché ho altre cose da dire. Allora, intanto, secondo me, Rita Repulsa in questo film è incredibile, perché lei è una bellissima donna ed è veramente truccata come una ranchia orrenda. Mamma mia, un mostro. Poi che altro? Ah, i costumi mi sono piaciuti parecchio, perché alla fine, a parte gli Zord che sono imbarazzanti, i costumi dei Power Rangers Hanno un sono... vestito del loro colore, sono be bellissimo. I costumi dei Power Rangers sono quasi come i costumi dei Power Rangers originali rimodernizzati, in realtà. Cioè, sembra molto una roba alla Marvel, nel senso che non hanno cambiato i costumi tradizionali. Beh, oddio. Mi è piaciuto. Beh, è rimasto il caschino, è rimasta la bocca finta, che c'era anche prima. Sì, beh, però non, cioè, non so così. Sono totalmente diversi dalla prima stagione. Beh, non totalmente, però sì. Assomigliano più ad altri, cioè a Ho quelli capito, di. ma hai presente cosa potevano fare? Cioè, potevano fare una roba alla Tron, tipo super luminescente, super già... Cioè... In realtà torna abbastanza con... E poi, poi ho altre due cose da dire. Forse un po' un minimo di lag. Vabbè. Allora, ci sono un milione di citazioni pop. Tipo, non so se avete notato, ma quando spara la macchina gialla dice vai Bumblebee. Vai Bumblebee, quello mi è piaciuto un Esatto, ma ce ne sacco. sono tantissime di citazioni pop all'interno ed è veramente carino. E poi, secondo me, gli scontri Scusa, tra gli... Bumblebee. Esatto. E secondo me gli scontri tra gli Zord sono, hanno effetti speciali migliori di quelli di Pacific Rim. Intanto sono fatti alla luce del sole. E in più hanno un budget minore. E a me sono piaciuti veramente tanto. E basta, no? In realtà, cioè, a me in realtà è piaciuto davvero questo film qua. Un po' per la nostalgia, un po' perché... È un film cazzone, cioè alla fine sono i Power Rangers, è come dire una roba sui Pokémon, cioè non è che ti devi aspettare che ti parli di scienza, è un pretesto per fare picchiare i robottoni, è molto bello. Secondo me Diciamo che è il forse film questo problema. che Lanterna Verde e Pacific Rim sarebbero voluti essere. No, piano. Allora, secondo me il problema è questo di questo film, cioè che è un film fatto per picchiare, cioè per vedere picchiare robottoni, per vedere gente che si picchia con tizi a casaccio in costumi un po' improbabili. Però per arrivare a quel momento davvero ci vuole un'eternità. Ce l'ho rivisto perché, cioè, un po' mi ricordavo, ma sembra quasi, boh, Godzilla 2014 per quanto si Sì, in fa effetti aspettare, li diciamo. avrei voluti far picchiare prima, perché così... Forse in effetti hai ragione. Però no, ma mi è piaciuto lo stesso. Non so se volete dire altro, ma intanto io volevo fare la rubrica io di questa puntata. Volevo dirvi che io questo film l'ho rivisto una quarta volta, dopo averla vista la terza volta ieri l'altro. E volevo chiedere se secondo voi, cioè se voi riuscite a indovinare perché io l'ho rivisto una quarta volta perché avevo una teoria che dovevo provare riguardandolo. Ovviamente non vi aspettate niente di eccezionale, cioè sarà ovviamente una cosa stupida alla me. Però volevo chiedervi se riuscite a indovinare perché l'ho dovuto vedere una quarta volta. Vi posso anche dare alcuni indizi volendo, se ci penso. Perché i colori sono talmente desaturati che non avevi visto chi era chi come Power Ranger, cioè chi era No, blu, chi era. ma per fortuna no, le magliette, i pantaloni, i vestiti di colori diversi per capirlo. È Però vero, non un buon abbiamo detto dettaglio. quanto è stato rimodernizzato, cioè il nero non è un Power Ranger nero, l'asiatico non è un esperto di arti marziali, che secondo me non è una cosa così scontata, e basta in realtà perché la donna è comunque rosa. gli stereotipi ci sono comunque, cioè. Però sono gli giocatori di football. Esatto, ci sono gli stereotipi da liceale, quindi c'è il giocatore di football che è quello figo, anche se in realtà poi sono tutti fighi, come ho detto. Cheerleader. La cheerleader è quella gnocca, anche se in realtà poverina ha qualche problema. E... Vabbè, e allora dai, vediamo se riuscite a indovinare il perché ho dovuto riguardare una quarta volta. Poi ve lo dico perché è una cosa che fa ridere. Cioè, no, forse no, in realtà, poi direte, è una cazzata. Beh, io la mia occasione l'ho avuta, sentiamo gli altri. Va bene. Comunque no, non è per quello. Ci speravo. Non saprei. Dai, mi conosci Andrea, secondo te perché l'ho riguardato? Qualsiasi trashata mi possa venire in mente, non è alla tua altezza. Non lo so, eh. No, non lo so, passo. Mi arrendo. Va bene. Do nullo il voto. Per capire dove abbia tirato fuori la torcia quando cascano nel laghetto il Power Ranger blu. Cacchio! No. Cazzo! Sarebbe stata una cosa seria, in realtà era la mia... E niente, devo davvero riguardarlo. Allora no, in realtà io mi sono chiesto questo. Ero più o meno a metà film e ho detto... Ma allora, lui è un figo. Perché è un figo, cioè lo conosciamo anche in Stranger Things, è un figo. Sì. L'asiatico è asiatico. E il tizio di colore ha il fisico da modello. Ma le donne? Le donne sono brutte. Allora, la beh, gialla no. È una nana di merda. La gialla è più bassa di me ed è una nana di merda. Ma Tirana ce n'è solo una, di sbagliato. Esatto, più o meno è uguale. E quell'altra, no. quell'altra secondo me è buzza. Allora io ho detto, ma cazzo, ma è vero che è buzza? Mi sono riguardato il film per vedere se la inquadravano mai del tutto. In realtà le uniche inquadrature che fanno in totale, cioè su tutto l'attore, cioè un'inquadratura intera, sono solo sugli attori uomini. E su... c'è la scena quando si butta dalla roccia. Eh sì, ma è molto buia. E le altre scene in cui inquadrano di tutto, la inquadrano tutta, o ha la tuta, oppure ha un vestito palesemente enorme. Lei è buzza nel film. Poi è una bellissima ragazza comunque. Però è buzza. E io ho riguardato il film e in effetti ma non puoi c'è tradurre mai... in italiano, scusa. Ma poi infatti perché... Cosa? Parli buzza. Bolognese. È buzza. Alla pancia. Ah ok, beh, immaginavo. Però magari... cioè, spiega. Vabbè, porca puttana, è buzza, dai, lo usano tutti, lo usano anche a Milano, lo usano anche a Genova, lo usano anche a Torino, vero? No, no. Vado. Vabbè, alla pancetta. Okay. Guardate, riguardatelo, cioè è molto bello perché gli attori uomini sono tutti figli, le attrici donne sono tutte o nane o grassa. Cioè grassa. Tu me stai citando. O grassa poi non è grassa, però ha la pancetta, non è un Power Ranger, cioè non ha il fisico da Power Ranger. Niente, è molto bello, è molto bello perché poi la regia la taglia sempre. Niente, vabbè, oh, scusate. No, vabbè, ci sta, ci sta. Va bene, dai, se non volete aggiungere altro, io direi di chiudere. Jacopo, tu hai qualcosa da dire? No, questa volta... Cioè, in realtà sì, però non per me. Cioè, se volete partecipare voi alla scommessa, poi vi dico il risultato. Cioè? Come hai detto tu, Salla, questo franchise È un po' che va in giro, diciamo. Minchia, sono più. Al, È praticamente la mia età. almeno agli inizi anni 90. Ok. È del 93 il periodo. Però 93. Però secondo voi, dopo questo film, diciamo di poco successo, per non chiamarlo flop di merda, quanto quanto vale il franchise? Cioè, se tu volessi comprare i diritti per tutto ciò che è Power Rangers, quindi giocattoli, serie TV, film, qualsiasi cosa, quanto dovresti pagare? Guarda com'è Adesso bellina non la gialla cercatelo, per asiatica. favore, fatevi Guarda com'è onesti. bellina la gialla asiatica e il nero nero. Belli. Bellissimo. Quanto vale il franchise? Dite un numero, per favore non cercatelo, non fate gli stronzi. Io l'ho già cercato, sono uno stronzo, però vabbè, non partecipo, quindi vai, salla. Vabbè, Devo cominciare sempre io? Andrea, che cazzo ne so. No, non ho idea. Vabbè, Angela. No, non ne ho idea. Ma tu intendi quanto possono costare un pupazzetto adesso dei Power No, Rangers? no, quanto può costare, quanto può valere il franchise se tipo una major decidesse di comprare, che cazzo ne so, i diritti per il franchise, immagino quanto gli Tipo la costerebbe. Disney. Vedi che è rimasta la bocchina di merda grigia? Come in questo, quello lì l'avrebbero potuta cambiare di brutto. Sì, infatti quella fa un po' No, ai schifo. costumi, il casco è rimasto uguale. No, i caschi sono Ha tolto diversi. È i rombi. uguale Eh sì, esatto, il Diamonds, il rombo è ripreso, solo che lì è È che i azzurrone caschi qua con LED. riprendevano lo Zord, ma i Zord qua fan cagare, quindi non poteva rifarli. Tra l'altro mi ha deluso. Ah, scusa, allora il franchise. Ma adesso chi ce l'ha tra l'altro? La Hasbro di chi è? No, sarà una Sì. roba. Ah, l'Hasbro? Sì. Varrà una Tenda barca di di una certa Saban. Oh. Varrà, boh, 100 milioni. Di Ok, Saban dice 100 milioni. dollari, Poco. comunque. Non è meno. Milioni Meno, cazzo, di 100 meno lo milioni. compro io. Qual è Cioè. il miglior film? Io dico 70 milioni. 70 milioni. No, questo Andrea. 80 milioni. Ah, io dico di più, un po' anche. Dai, 100, 180, 200, No, vabbè, 200, Andrea, dai. fai il fan. 200 milioni? E Ma sì, dai, mo. Andrea ha vinto, cazzo, perché vale Però 522 milioni. Porca. Dai, mo, Comprato. vabbè che è svalutato, però. Comprato un anno fa, poco più di un anno fa, dalla Hasbro a 522 milioni di dollari. Non sono Più tanti incredibile, comunque, cioè. però sì. Sì, ho capito, però sono i Power Rangers, cioè mica è Spider-Man, non lo so. Ma secondo me li vendono ancora i giocattoli di sta roba. Boh, Dici, boh. da qualche parte nel mondo. Ma E quindi. cioè le serie continuano a uscire ogni anno, quindi Sì, però quest'anno io. deve uscire ancora tipo o è già uscita? Quella Non lo so, però del immagino che rispetto a, cazzo ne so, ai DC o ai Marvel abbiano un pubblico un po' minore. Vabbè, comunque non è importante. No, volevo dire che. Scusate, ma il Megazord non aveva l'originale, non aveva tipo una spada. Sicuro. Perché qua quelle due falcetti di merda in questo film? Beh, Tra l'altro è bellissimo, perché riflettere. a un certo punto dice non abbiamo una spada e poi ne tira fuori due. Sì, ma non sono spade, quindi in realtà ha ragione. Va bene, dai. Aveva una spada. Vabbè, dai, io chiuderei Prima. qui. Il film ve lo consiglio, e la visione almeno 3 volte, 2 volte. Una volta e basta. Ringrazio i soliti due babbuini e ringrazio l'ospite. Grazie Angela di averci fatto compagnia e di averci consigliato un film così bello. Altri quando vuoi. Grazie. Va bene, magari apriremo anche una rubrica di B-movie perché mi ha già sparato 200.000 titoli che non conosco e quindi... Adesso è possibile? Io li ho anche visti al cinema. Sì, vabbè, ma chissà, no, chissà che soldi. Cinema vai, cioè, onestamente... Che invidia. Poi io non ci posso andare al cinema, come ben sapete, perché sono povero. E... Però devi pagarci il capodanno. Giusto, ma non il capodanno a Copenaghen, il capodanno in un posto diverso. Va bene, e grazie a voi per l'ascolto, ci vediamo la prossima settimana con un episodio sapio che noi in realtà abbiamo già registrato, ma vi proponiamo più tardi. E ciao. Power Rangers Go! Sì, go, ciao. Power ciao. No, davvero, la colonna sonora è incredibile. Cioè.